Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. 10 milioni, adesso vi dico esattamente il numero, 10 milioni di spettatori, 9 milioni 816 di media, i telespettatori di ieri sera per Italia-Brasile. Una partita che è finita in maniera diversa da come si sperava, forse anche da come si pensava. Le chiavi di lettura possibili sono tante, alcune sono state sono già state, come dire, sperimentate, sono state tentate, più o meno credibili, più o meno banali, più o meno normali anche. Io vorrei provare ad approfondirne, e visto che si trattava di una partita che comunque fa storia, anche se è amichevole, perché resta in un albo d'oro, tra l'altro molto rarefatto, insomma, ci si spiegava e ci si raccontava ieri che le sfide tra Italia e Brasile non sono poi state così numerose nella storia del calcio, e comunque attualmente mancava da quasi 12 anni, quindi per quello che comunque rimane un evento calcistico da approfondire, sono tornato a disturbare niente meno che Adalberto Bortolotti. Buongiorno Adalberto. Ciao Gigi, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Senti, le domande sono tante. Io comincerei per inquadrare la partita e le risultanze. Comincerei da questa: maggiori meriti del Brasile o maggiori demeriti dell'Italia? Ma non vorrei rifugiarmi in una risposta banale, direi un po' e un po'. A me ha fatto sensazione una cosa, mi è sembrata nelle reazioni della critica, fermo restando che il Brasile ha sicuramente giocato meglio e meritato di vincere, un certo eccesso di autoflagellazione. Cioè è una partita che tutto sommato è finita 2-0 con Giulio Cesare miglior giocatore del Brasile dopo Robinho, penso, dopo Robinho e Luano, se vogliamo, sono comunque lì, autore di almeno due parate determinanti, comunque di tre parate spettacolari, e con un gol regolare annullato all'Italia sullo 0-0. Ecco, questo voglio dire, non toglie che il Brasile abbia mostrato una diversa categoria, soprattutto a centrocampo, dove secondo me non c'è stata partita. Però forse ci siamo depressi troppo, forse avevamo troppe speranze su questa partita, forse ci illudeva quel primato di Lippi, che poi è un primato così abbastanza, come dire, folcloristico più che tecnico, perché è riferito a due gestioni diverse, insomma. In ogni caso a me è sembrato un eccellente Brasile europeo, cioè molto molto stile Dunga. Lo stesso debutto di Felipe Melo ha quasi restaurato la figura di Dunga in questa nazionale. È vero. Del Dunga giocatore davanti alla difesa, cioè ombrello davanti alla difesa, e di un'Italia un pochino, cioè io credo che Lippi non avrebbe schierato questa formazione se la partita fosse stata ufficiale per un traguardo. Ecco, il centrocampo era diciamo velleitario, con due giocatori quasi inediti a questi livelli, Montolivo e Pepe, e in ogni caso eravamo un po' scoperti, ecco, rispetto a, cioè, è quasi un controsenso se facciamo la storia degli Italia-Brasile, ma questo era un Brasile molto più razionale, molto, molto più accorto, molto più tatticamente equilibrato. Adalberto, ha colpito, ecco, tu hai parlato di Felipe Melo. Felipe Melo era un debuttante in un ruolo molto delicato, perché quello del centrale davanti alla difesa in una nazionale come quella brasiliana è un ruolo chiave tatticamente. Dall'altra parte giocava un giocatore dello stesso club, che è Montolivo per l'appunto, che diciamo che nella Fiorentina, anche se Felipe Melo sta molto crescendo anche nel club, e io personalmente lo seguo da un po' perché mi piace molto, ecco, diciamo che Montolivo dovrebbe essere qualcosina di più, perlomeno nell'ottica, no, di una Fiorentina. Credo che questa differenza di rendimento tra due giocatori così vicini che si conoscono bene, è successo anche, non lo so, tra De Rossi e Juan, voglio dire, perché per una volta De Rossi non ha giocato, direi, ai suoi livelli, mentre il brasiliano ha giocato una grande partita. da centrale di sinistra. Insomma, quasi che fossero i brasiliani ad avere, al di là poi della serata e delle circostanze, ad avere più motivazioni. Noi non siamo proprio una nazionale da amichevole, credo che sia la conferma definitiva, no? Noi non siamo una nazionale da amichevoli, normalmente non siamo neanche spettatori da amichevoli, ma è questo il grande fascino del Brasile rispetto a tutte le altre nazionali del mondo, che raduna 10 milioni di spettatori davanti alla TV quando una partita amichevole viene normalmente snobbata a questi livelli. Non lo siamo neanche forse come giocatori, ma in quel particolare discorso di Montolivo, Felipe Melo faceva il suo ruolo. Montolivo io non ho capito bene cosa dovesse fare. Ecco. Perché era la spalla di De Rossi, ma De Rossi, Pirlo ha giocato più dietro, facendo buone cose, ma essendo responsabile primo del gol che di Robinho, ha avviato la vittoria del Brasile. Non è uno che perda palla spesso, quando succede forse fa più notizia Pirlo, sì. Ma certo, in quel poi posto torniamo lì, aveva poi fatto un lancio straordinario che andava segnato 1-0 per noi e che è stato cancellato da enti diciamo esterni. Ma Montolivo già nella Fiorentina non sempre trova la sua posizione. Lui è un giocatore di grandi potenzialità, però ha bisogno anche di trovarsi una posizione dove rendere al meglio. Qui mi è sembrato abbastanza spaesato, perché era un centrocampo teoricamente a 4, ma Pepe è un centrocampista, a me sembra un'ala, quindi era, secondo me, ha patito più disagi rispetto a un Felipe Melo che ha giocato invece nella posizione che anche Prandelli gli destina, insomma. Forse è un po' presuntuoso anche lo schieramento di partenza, no? Contro... Sì, tenuto conto di questa difesa, noi abbiamo una difesa con due esterni molto bravi a proporre, molto meno bravi a difendere. Non c'è questo nessuno. Anche quando erano giovani, adesso il tempo passa per tutti, anche Zambrotta e Grosso sono entrati nel club di giocatori stagionati, no? Certo. E in difesa hanno ballato, anche se poi sono stati fra i più brillanti a proporre gioco. Con due centrali a loro volta bisognosi di protezione, forse più di quelli del Brasile, che pure erano meglio protetti, perché Juan e Lucio sono una coppia anche atleticamente molto forte, oltre che tecnicamente. Ecco, quindi proprio tenendo conto di questa difesa, il filtro e la protezione del centrocampo mi è parso assolutamente insufficiente. Per questo dico, secondo me, se la partita contava, Lippi non l'avrebbe giocata con questi giocatori e con questo modulo. Ecco. Sai chi, nella visione tradizionale che si ha del brasiliano, no? Di grande palleggio, di grande qualità e magari poi della disattenzione, no? Dell'ingenuità, ieri sera il più brasiliano di tutti è stato Pirlo, secondo me, perché il pallone per Grosso era fenomenale. Quello del secondo tempo per Toni, poi col fallo di mano, era di nuovo un altro lancio fantastico. La sciocchezza al limite della propria area è una roba da brasiliani, più che detto. Anche un altro che poi è stato immediato, ma cioè un retropassaggio troppo corto, cioè mi sembrava proprio un po' distratto, ecco. Poi parliamo anche di giocatori che fra pochissimi giorni hanno un appuntamento decisamente più importante. Ciò non toglie, contro il Brasile è chiaro, tutti giocano al meglio, però nell'inconscio forse pensare anche un po' al derby non è peccato, ecco. No, certo, è anche proprio come distrazione, intendo. Sì. D'altra parte è un Brasile che a me è sembrato, se avesse sempre anche negli altri impegni questa mentalità, una squadra decisamente temibile e ai livelli dell'Argentina adesso, che forse ha anche individualità maggiori, ma superiore a tutti, perché teniamo conto ha giocato con un centravanti gregario, perché Adriano non ha fatto un tiro in porta, non ci ha neanche provato, fermava quando poteva la palla e la dava indietro. Il Serginho dell'82, a esagerare, il Serginho dell'82 un po' meno sciagurato nei tocchi, diciamo, però come pratica incidenza uguale, cioè quasi zero, diciamo. Però tutto il resto è stato molto molto equilibrato. A me è piaciuto molto anche quel giovane terzino Marcelo, sì. E adesso sai, con Maicon, che anche lui è stato magari un po' frenato, cioè non ha dato tutto quello che può dare, però Maicon e Marcelo mi sembra una coppia degna dei grandi terzini della storia del Brasile. Certo. Con la differenza che difendono anche. Ecco, ieri hanno difeso e difeso bene. E con l'aggiunta di Dani Alves e di Elano, che anche lui gioca abbastanza largo anche nel Manchester City, che gli dà delle soluzioni esterne numerosissime e tutte di grande. Poi giocatori di corsa anche. Sì, come sì, di grande Eduardo. Qualità. Cioè, non brasiliano, perché c'era il Ronaldinho che deliziava gli spettatori, e questo era giusto in un amichevole, facendo sì. Qualche numero da fermo, ma c'erano anche dei fior di corridori, no? Sì, di grande sostanza oltre che di qualità. Io credo questo che quel Robinho che ha corsa e numeri magari un po' lunatico, ma quando è in serata quando è sicuramente in serata, un giocatore di grandissimo livello, campione, non c'è nessun dubbio. A me pare che la partita di ieri abbia anche rivalutato sull'uno e sull'altro fronte a Mauri, sinceramente, perché credo che la stazza fisica, Tony e Adriano hanno la stessa stazza fisica di Mauri, no? Più o meno, però credo che per tutti e due oggi, uno per una ragione magari anagrafica Tony, l'altro per altre ragioni che più o meno sappiamo Adriano, credo che in questo momento non abbiano la personalità e direi anche la tecnica davanti per fare la prima. Ovviamente se al Brasile di ieri sera metti Kaká al posto di Ronaldinho e Mauri al posto allora sì che ci sarebbe stata una flagellazione probabilmente oggi giustificata, motivata, oggi perché sarebbe finita peggio, ecco. Questo indubbiamente, poi anche noi potevamo avere un'altra squadra, però sono proprio le soluzioni alternative che questo Brasile può mettere sul piatto a fare pensare. Gli attaccanti loro in giro per il mondo ne hanno di fortissimi. Adriano è sicuramente stata una scelta così, anche magari in vista di un recupero di un giocatore importante, però Amaury adesso è più forte di Adriano. Certo, hai accennato a come potrebbe essere, a come avrebbe potuto essere un Brasile ancora nettamente più forte, e hai detto con Kaká e Amaury al posto di Ronaldinho e Adriano. Adesso facciamo quell'attimo un intervallo, poi prima di congedarci magari provo a chiederti e proviamo a riflettere su come potrebbe essere invece un'Italia più autorevole e soprattutto più competitiva. Torniamo in onda con la domanda finale per Adalberto Bortolotti, o comunque la domanda da sottofinale. Kaká e Amaury in più per il Brasile, a parte un sacco di altre alternative possibili, per l'Italia che margine di miglioramento è più o meno con chi? Abbiamo meno di alternative rispetto al Brasile, però io penso che una difesa non possa prescindere da Chiellini, da un giocatore come Chiellini, ovviamente quando sta bene. Certo. È una coppia centrale Chiellini-Cannavaro, finché il grande Fabio regge mi sembra molto più affidabile, con tutto il rispetto per le grottaglie. Dei due terzini a me sembra che ne possa giocare al massimo uno per volta, Zambrotta è grosso. Dalla parte di Zambrotta mi piacerebbe un giocatore più abile in copertura, poi trovarlo è un altro problema, ma credo che qualche soluzione ci sia. Insomma. Sì. Centrocampo, ti dico subito, il giocatore che io metterei subito a questo punto, perché mi sembra di un'altra categoria, è Rossi davanti. Noi abbiamo una tradizione nobile di attaccanti che si chiamano Rossi, ma il Pepito Rossi, come lo chiama Berzot, mi pare attualmente degno di un posto da titolare. Sì. Un'altra marcia, una formula però a due punte. Sì. Ecco, cioè vicino a ieri, con tutti i disastri magari che ha combinato, è stato molto più vivo Toni che Gilardino, sì. È praticamente passato inosservato. Diciamo Toni Rossi o comunque un altro centravanti per Rossi, aspettandolo. Borriello, che poteva essere una speranza, quest'anno l'abbiamo perso. Insomma, questi giocatori vanno poi cercati anche con le indicazioni del campionato. E in mezzo Camoranesi, Pirlo e De Rossi, ecco. Sì, Camoranesi nella fase d'attacco può andare ad appoggiare le due, ma dietro fa anche regia e anche copertura. Sì, a parte poi Gattuso, che ovviamente, no, si aspetta in Hai ragione, ovviamente Gattuso che manca da molti tempo e me l'ero dimenticato. Ma si tende, a parte che appunto lì c'è poi una rotazione, insomma, ma no, certo. Possiamo giocare in 11, ecco. Però dico come idea di squadra, mi sembra questa, e la grande, grande forse, però la conferma di ieri sera se c'è stata viene da Rossi, ecco, mi è parso che il suo secondo tempo sia stato veramente di un livello notevole, anche e perché abbia messo in difficoltà, le uniche difficoltà che sono andate, questa ferrea copertura brasiliana, sono venuti da questi suoi spunti esterni. Esatto, anche perché non è facile entrare in quella situazione tattica e anche direi di frustrazione collettiva e darsi da fare con quella qualità e con quella vivacità. D'altra parte, che fosse un amichevole, cosa che non è un attenuante, intendiamo, non è una scusa dietro cui nascondersi, ma è una fotografia che poi fa parte del nostro DNA, credo che una conferma venga da che cosa? Tu hai citato Camoranesi. Bene, sì. Camoranesi è un argentino naturalizzato, è un gringo in piena regola, ed è uno a cui nel finale hanno messo due o tre volte i brasiliani la palla sotto la suola, no? Io credo che se non fosse stato un amichevole, altro che quel paio di scarabugge con Dunga, cioè c'erano... No, ma infatti nella ripresa, quando loro l'hanno messo molto sul palleggio, così quasi, non dico volendo prendere in giro, ma comunque per mettere le distanze, c'è stato qualche giustificato ritorno di agonismo, ecco, anche da parte di Zambrotta, che in genere è un giocatore molto tranquillo, insomma. Però dicevo di Rossi che il fatto di aver compiuto la maggior parte della sua carriera all'estero gli ha forse dato quella maggiore sfrontatezza che nei nostri giovani è difficile trovare subito a livello di nazionale. Ecco, l'ho visto entrare subito in partita con un atteggiamento mentale diverso. Con l'aria di dire quello di Montolivo, certo, o di altri, ecco. Quasi e con l'aria di dire guardate che insomma, qualche scattino, qualche numerino alla Robinho, o quasi lo sappiamo fare anche noi, Ecco quello, mentre Montolivo, che è bravissimo, si è presentato in punta di piedi, sì, ecco. Questo Rossi invece l'ha presa subito di petto, è andato, ha dribblato, ha fatto cose difficili, ha tentato cose difficili. Adalberto, grazie anche questa volta. Grazie a te, a risentirci. A presto, chiudiamo questa direi non lunga, ma insomma questa ampia disamina su Italia-Brasile, condotta da Alberto Bortolotti, quindi uno che di edizioni di Italia-Brasile ne ha viste tante e con il quale appunto è stato interessante sentire i pareri su ieri, ma proiettati già in un possibile futuro, visto che poi il commento di Lippi è stato superiore loro stasera e poi invece vedremo cosa accadrà tra un anno, cioè vedremo se riusciranno a restare così superiori o se invece i rapporti di forza muteranno. Cominciamo a sentire qualche commento di ieri, cominciando proprio da quello di Marcello Lippi. Non sentiamo il commento di Marcello Lippi perché c'è un problema tecnico. E allora potrei dare la parola a un primo ascoltatore, per esempio a Franco, che ha chiamato dalla provincia di Siena. Buongiorno. Signor Garanzini, buongiorno, complimenti per la sua trasmissione. Sì. Io mi è sembrato ieri sera di vedere due squadre su due pianeti diversi, in cui noi siamo stati veramente umiliati. Non ci sono, credo, altre parole. No, ce ne sono molte altre. Io su umiliati non sono assolutamente d'accordo. Però lei usi quella, io le anticipo che non la condivido, però dica. Noi abbiamo giocato anche in maniera offensiva nei confronti del Brasile, perché schierare una squadra del genere non è questione di uomini, è che loro hanno uomini, modulo, tecnica, allenatore, che ci hanno sovrastato su tutti i ruoli. E venire a dire che se giocava Tizio, se giocava Caio, se giocava Sempronio poteva cambiare la partita, io credo che sia una cosa offensiva di quello che ieri sera ha fatto il Brasile. Ieri sera il Brasile a noi ci ha umiliato, ci hanno detto questo è il calcio e voi siete una squadra di seconda fascia. E le posso dire anche una cosa, che quando si gioca con il Brasile, un allenatore come Lippi, molto navigato, non può presentare una squadra del genere con una tecnica del genere, perché a chi guarda le partite, che è abituato a vedere il bel calcio, ieri sera veramente noi abbiamo offeso anche chi ha guardato la partita, non solo il Brasile. Franco, sono proprio molto poco d'accordo, d'accordo con lei. Il Brasile ha giocato meglio, ha interpretato meglio una partita. Credo che tra Italia e Brasile, non ricordo una sfida tra Italia e Brasile in cui dal punto di vista estetico o puramente qualitativo l'Italia abbia giocato meglio del Brasile, anche perché credo sia abbastanza impossibile. Il modo stesso in cui loro mediamente o collettivamente, cioè tutti, toccano il pallone, il modo in cui se si pongono, le movenze, sono certamente più accattivanti da un punto di vista estetico delle nostre. L'Italia ha altre risorse, ha altre qualità, non escluse quelle del palleggio, ma non nella loro stessa misura. Io non mi appiglio mai a episodi per cose assai più importanti, si immagini per un amichevole. Però è vero che dopo 3 minuti l'Italia li aveva bucati, questi che lei chiama fenomeni, li aveva bucati con un'azione di una bellezza assoluta, perché sia il colpo di Pirlo che il colpo di Grosso erano due prodezze assolute. Io poi ho il dubbio che non fosse un gol annullato, perché secondo me Julio César avrebbe fatto di meglio se non avesse visto o avvertito comunque la segnalazione dell'assistente piuttosto che il fischio. Non so se è arrivato prima o dopo, queste sono le consuete pugnette del campionato e per un amichevole internazionale ce le siamo per una volta risparmiate. Comunque questo è accaduto. Sul 2-0 nel secondo tempo, quando l'Italia ha dato qualche segno di vita, Julio César è anche diventato, se non il migliore in campo, uno dei migliori in campo, con almeno 2 parate significative. Sicché questa distanza che lei dice come se fossero 2 pianeti diversi, io sinceramente non l'ho vista. Era la distanza tra una squadra che ha giocato una buona, non eccezionale, ma una buona partita, e una che invece ha sbagliato serata, ma della stessa categoria però, a parer mio. Lino da Bergamo, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Dunque, per quanto riguarda il mio intervento, riguardava appunto la partita di ieri sera. Sì. E avevo fatto una considerazione ieri sera vedendo la partita con mio padre, e sembrava che i brasiliani si fossero dati di gomito, nel senso di dire: giochiamo la partita in una delle più importanti capitali europee, siamo tutti giocatori di squadre importanti europee, facciamo davvero vedere quando siamo insieme cosa valiamo. E qua per me è stata la sorpresa degli italiani, che invece magari non che l'hanno presa sotto gamba, ma non hanno forse dato quell'importanza alla partita, quella che invece era una partita importante, nel senso del prestigio proprio del giocare a calcio. Quello che è mancato forse a noi italiani, diciamo alla squadra italiana, quella di capire proprio la partita importante che era. E mi era sembrato di capire anche poi a fine partita, dalle parole di Marcello Lippi, di non tanto il contenuto, ma quanto proprio il tono della voce, la sorpresa di aver trovato una squadra così determinata, che aveva fatto proprio anche dal piano fisico la sua carta vincente. Avevano qualità, avevano sì, troppo. Sì, mi scusi Lino, che se così riusciamo a dare poi la linea tempestivamente anche ai mercati. Lippi, più che da come era stato il Brasile, mi è parso sorpreso da come era stata l'Italia. Guardi, è arrivata, ne abbiamo parlato prima a lungo con un maestro come Adalberto, ma Andrea da Rimini scrive un messaggio molto bello, scrive: sapete perché l'Italia non è una nazionale da amichevoli? Perché basa la sua forza sull'acume tattico, il quale si può esprimere al meglio solo al massimo della concentrazione mentale, quindi solo in partite che stimolino detta concentrazione a livelli massimali. Ha ragione Andrea, questa è una chiave di lettura storica per le partite che riguardano l'Italia. E d'altra parte, se si gioca una partita, adesso non dico di esibizione, ma quasi, no? Perché ormai nel calcio di oggi, se non c'è nulla in palio, siamo molto vicini all'esibizione, c'è poco da fare. In 8 occasioni su 10 un'esibizione tra brasiliani e italiani, a esibirsi sono più bravi i brasiliani, su questo credo che non ci dovrebbero essere tanti dubbi. Lippi non è rientrato con la squadra che è arrivata alla Malpensa prima prima e poi alle 5 di mattina a Fiumicino. È rimasto a Londra, da dove in giornata vola a Dublino per assistere stasera a Irlanda Georgia, valida per il gruppo 8, questa è una partita con i tre punti, il gruppo 8 di cui fa parte anche l'Italia. A proposito di questo, ricavo da 24 minuti il pomeridiano del Sole 24 Ore in distribuzione gratuita a Milano e a Roma, ricavo il programma anche televisivo di stasera, che è ricchissimo, perché prevede su Mediaset Premium alle 20.45 per l'appunto Irlanda-Georgia, alle 21 su Sport Italia Francia-Argentina, forse il clou della serata, o comunque il clou condiviso con Spagna-Inghilterra alle 22 sulla 7, mentre su Rai 3 alle 21 Italia-Svezia Under 21 da Trieste. Da notare che ci sono due sfide di panchine interessanti, perché Inghilterra-Spagna è una sfida tra due ex allenatori del Real Madrid, niente meno. Oggi il CT della Spagna è Del Bosque e il CT dell'Inghilterra, come sappiamo, è Capello. Irlanda-Georgia è una sfida invece anche tra due ex allenatori dell'Inter, visto che l'allenatore della Georgia è Cooper e dell'Irlanda è per l'appunto Giovanni Trapattoni. C'è il display carico di ascoltatori che vogliono intervenire, allora darei qualche breve commento azzurro e poi darei spazio a voi. Lasciamo stare Lippi, sentiamo il commento di Cannavaro. Soprattutto nel primo tempo penso che non abbiamo giocato da Italia, siamo stati troppo timorosi, aspettavamo, li facevamo giocare troppo e contro queste squadre qui, soprattutto nel Brasile, quando non rischi qualcosa in più la paghi, soprattutto nel primo tempo l'abbiamo pagata. Peccato, perché poi se uno va a vedere magari abbiamo fatto pure più tiri in porta, abbiamo creato qualche occasione in più, però la sensazione che abbiamo avuto soprattutto nel primo tempo era quella sbagliata. E un campo uno la sensazione la percepisce e cerca di fare qualcosa, però stasera è una serata storta, meglio avere una serata storta contro il Brasile in amichevole che magari in altre occasioni. Questo è oggettivamente vero. Giorgio Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo esprimere la mia opinione, perché francamente io non ho visto quella grande differenza di cui ho sentito un ascoltatore prima parlare. Certamente il secondo tempo è dimostrato che abbiamo dei migliori giocatori di quelli messi su nel primo tempo, questo è indubbio. Tant'è vero che Toni nella sua confusione ha fatto due gol, peraltro non validi, ma ha tirati cinque volte e Giulio Cesar ha fatto parate, credo, strepitose. Una in particolare, quella. Una in particolare, quella lì bisogna dargli veramente un voto altissimo. Poi credo che fondamentalmente, tutti rispetto per il signor Pepe, ma si chiamano lì un'altra cosa, voglio dire, quando sono messi le persone con la nazionale, con i nostri effettivi in forma, ce la giochiamo molto bene con il Brasile, secondo me. Non so cosa ne pensa lei. Ma ne abbiamo parlato fino adesso, infatti. Io penso proprio di sì, anche se credo che loro, insomma, anche loro abbiano, l'Italia può certamente migliorare, no? Si diceva prima con Bortolotti rispetto a quella di ieri sera, basti pensare ad assenze, insomma, di gente che pesa, ne dico uno per reparto, Chiellini dietro e Gattuso in mezzo, sono due con cui che ti danno altre garanzie, no? Rispetto alle grottaglie e a scelta a uno dei centrocampisti se c'è da combattere, però anche loro, si diceva, hanno a loro volta ancora margini di miglioramento, quindi d'accordissimo con lei che non era una sfida tra categorie diverse come risultava in base al primo intervento di oggi, però insomma una certa differenza ieri sera c'è stata e non è detto che non possa essere mantenuta dai brasiliani. Staremo a vedere. Giovanni ha chiamato da Milano, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. No, anch'io volevo difendere un po' la nazionale, perché non ho visto questa grandissima differenza tra noi e loro, a parte i due errori clamorosi fatti in difesa per i due gol, quello fatto da Zambrotta è un errore madornale sul gol di Rovinio, su quell'altro gol c'è stato un errore madornale dei due centrali. Ma poi altre grandissime parate di Buffon non me ne ricordo. Mi ricordo due grandissime parate di Giulio Cesar, Ottoni che ha sbagliato qualche gol davanti alla porta. E poi un gran girare palla, un gran muovere palla, noi che li correvamo dietro, ma poi del resto loro però, non mi sembra che abbiamo fatto che cosa. No, d'accordo, però del resto loro vincevano 2-0. Sì, ma dato che a palleggiare se la cavano, cioè, il loro gioco era quello di nascondercela, no? Sì, ma quello sono capaci di farlo, però in partite serie non penso che gliela facciano girare così facilmente nella palla, eh. No, dipende da che Brasile è, insomma. Non, in una partita seria, certamente quello che hanno fatto ieri sera, secondo me, non gli basta. Potrebbe non bastargli. Il problema è che possono fare anche meglio, ma insomma, ripeto, è anche divertente provare a indovinare come potrà essere la prossima volta, no? Visto che per l'appunto. Stavolta, a differenza di come insegna la tradizione delle sfide tra Italia e Brasile, stavolta la prossima sarà presto, perché sarà in giugno, al torneo premondiale in Sudafrica, e potrebbero addirittura essere due, perché Italia e Brasile sono nello stesso girone eliminatorio di questa tournée premondiale, e se vanno avanti poi si possono rincontrare in semifinale o in finale. Oh, se parliamo di calcio ad altissimo livello, ma insomma di calcio che perlomeno mi lascia perplesso, è questo. È ufficiale che Hiddink allenerà il Chelsea dalla prossima settimana. È ufficiale anche che per questi quattro mesi circa di lavoro, di guida tecnica, guadagnerà un paio di milioni di euro. L'agenzia dice 2 milioni di euro per 15 settimane. Ma non è ancora questo il punto, è che Hiddink continuerà a fare il responsabile tecnico anche della Russia, e poiché il contratto da CT della nazionale russa è onorato personalmente da Abramovic, che è lo stesso patron del Chelsea, in realtà Abramovic ha aggiunto un'altra parte contrattuale a Hiddink. Ora la cosa che mi sorprende un pochino personalmente è questa. È che è vero che Hiddink è un signor allenatore, ma è anche vero che probabilmente non è il solo bravo allenatore al mondo o disponibile. Ora, che una squadra come il Chelsea, che insomma non versa in buonissime acque e che ha bisogno delle massime cure possibili da parte di un tecnico nuovo, debba accontentarsi di un tecnico, non dico part time ma quasi, insomma, diciamo che è perlomeno sorprendente. Gino da Latina, buongiorno. Buongiorno, complimenti. Diciamo che il mio intervento è stato mangiato tutto dai due che mi hanno preceduto. Mi dispiace perché da juventino un olandese non lo vorrei mai incontrare contro, perché ci hanno sempre messo in difficoltà. E poi indubbiamente lei ha già risposto in effetti dicendo che Chiellini è un'altra cosa rispetto alle Grottaglie, perché le Grottaglie nella disposizione tattica è come Cannavaro, in effetti, no? E comunque, infatti, io l'intervento è maturato perché ho sentito quelli dire che da vergognarsi, insomma, la partita l'ho vista, non mi sembrava proprio da vergognarsi, anzi, mi sono divertito, sarà una discreta partita, mi sembra, no? Ma sono completamente d'accordo con lei, ma sai, ci sono quelli che si vergognano facile, no? Cioè, che si vergognassero magari qualche volta per delle cose serie, anziché per una partita persa col Brasile, forse sarebbe, ne guadagnerebbe la società civile, però ciascuno poi si vergogna, no? per quello che meglio ritiene. Sentite questa simpatica lettera firmata Alberto da Lucca. Le chiedo, leggo questa, ma ce ne sono molte altre dello stesso tenore. Le chiedo un parere tecnico e di regolamento. Il tema qual è? Il tema è che pare che ieri Kakà abbia avuto una leggera ripresa atletica e che potrebbe, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe tornare disponibile per il derby, anche se la cosa al momento rimane altamente improbabile. Allora Alberto scrive: le chiedo un parere tecnico e di regolamento. Visto che già su molti siti inizia a far capolino che Kakà potrebbe miracolosamente rientrare, le chiedo: la regola non dice che un giocatore che non risponde alla convocazione della sua federazione non possa giocare la partita successiva? A tal senso le riporto la conversazione trovata su un forum che avalla la mia tesi. Ora, prima di andare a curiosare una conversazione su un forum per ricavarne un parere, io non dico di farla finita prima, ma insomma credo che ci possano essere, come dire, degli impieghi alternativi al proprio tempo libero. Ma visto che tutto questo, avrete capito dal tono e il tono di altre mail è ancora più incalzante, è il tono del sospetto, è il tono della congiura, è il tono della furbata, insomma è il tono che si respira in Italia quando si parla di sport in generale, ma soprattutto da quando si parla di calcio. Io faccio semplicemente una controdomanda: ma non è possibile che un giocatore che il martedì non è in grado di giocare sia invece in grado di giocare la domenica sera per giunta? Discorso che in questo caso può essere riferito a Kakà, potrebbe essere riferito a Del Piero, potrebbe essere riferito a Ibrahimovic, a Totti, così almeno non inneschiamo, se è possibile, questioni di parte. È un po', a me ricorda un po' questo questo discorso, le ammonizioni per simulazione. Spesso mi piacerebbe che un arbitro pensasse che non è detto che lui debba fischiare il rigore per un intervento, ma non è nemmeno detto che quel giocatore non potesse cadere senza simulare. Alla stessa maniera, sia pure su un argomento completamente diverso, ma perché un giocatore che il martedì, ripeto, non è in grado di giocare perché si è infortunato il sabato, non potrebbe in altri quattro giorni guarire? Cioè, le diagnosi e le prognosi devono essere univoche, perché sennò in Italia si scatena la cultura del sospetto. Alessandro Bolzano, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno. Sì, diciamo che comunque la partita sono sulla falsa riga di Cannavaro, troppo timida l'Italia all'inizio, è chiaro che abbiamo regalato i due gol e qualche occasione l'avevamo fatto anche noi. Non mi sembra che ci sia tutta questa differenza. Regalato nel senso di commesso un paio di errori, poi bisogna ancora farli quei gol lì, soprattutto il secondo, Sì, sicuramente, però da lì è partito con palla nostra, giustissimo. Dopo, considerando che ho visto De Rossi un po' stanco e ritengo che anche Montolivo non abbia capito o non si è capito cosa facesse, soprattutto il ruolo, in mezzo al campo, lo vedevo timido, come diceva prima anche il collega giornalista, con Pepe sulla fascia, che anche lì sicuramente non è Camoranesi. Nel secondo tempo un po' più, perché eravamo sotto di 2-0, ho visto un'Italia che almeno sotto l'aspetto qualcosa in più sulla grinta e ce l'ha messa, ho visto questa differenza. Tutto sommato pensavo che l'Italia fosse peggio, viste le assenze, visto anche Camoranesi che rientrava, visto che le Grottaglie assieme a Cannavaro non giocano da tanto, assieme, che Chiellini faccia un po' la differenza assieme a Cannavaro, no? Sono due persone dinamiche, molto, molto valide sotto l'aspetto anche dell'organizzazione e dei movimenti, sicuramente. Grazie Alessandro, il problema non si pone, parlo di Kakà, scrive Enzo, perché Kakà non è stato convocato, ma difatti Kakà non è stato nemmeno convocato, perché se Kakà dice che non è in grado di giocare per il Brasile, lo dice il medico del Milan, il medico del Brasile, tra l'altro con Leonardo e con altri personaggi garanti, non è che deve scattare un caso, né per il Brasile né per il Milan, scatta ovviamente per gli azzeccagarbugli che popolano la tribù degli appassionati. Il ripasso di storia, Nicola Filippone. Sembra ieri. 11 febbraio 1990. A Tokyo va in scena una sfida che mette sotto sopra il mondo del pugilato. Il campione mondiale dei pesi massimi Mike Tyson subisce la prima sconfitta in carriera. L'autore dell'impresa è un avversario poco quotato, sulla carta poco più di uno sparring partner, il semi sconosciuto James Buster Douglas, capace di infliggere ad Iron Mike un umiliante KO alla decima ripresa. La sfida di Tokyo rappresenta lo spartiacque nella carriera di entrambi. Tyson, tra mille vicissitudini, riconquisterà la corona iridata, ma non sarà mai più l'incontrastato dominatore della scena. La stella di Douglas, invece, brillerà solo pochi mesi. Alla prima difesa del titolo, il neocampione finirà KO dopo tre riprese contro Evander Holyfield e tornerà nell'ombra. Marcello, in linea da Milano, buongiorno. Ragazzi, è sempre un piacere sentirla. Mi riallaccio alle sue acute osservazioni su Kakà. La mia domanda era prima un'altra, poi gliela faccio. Innanzitutto vorrei tranquillizzare anche i tifosi interisti, che immagino ci siano sotto a queste maldicenze, ma Kakà c'era anche con la Regina, col Torino. Sì, sì. È stato in innumerevoli partite che purtroppo il Milan ha faticato immensamente e non ha neanche vinto, quindi che stiamo tranquilli, dai. Ma non è questione di qualità, è la questione della ricerca della truffa o della furbata ad ogni costo, che è uno degli sport nazionali, no? Da qualsiasi parte arrivi, insomma. Bravo. E altra cosa, Garanzini, non so se ne avete già parlato, che mi sono dovuto assentare un attimo. Io ho trovato così che non hanno molto notato anche la formazione del primo tempo, che mi è sembrata abbastanza strana, del Lippi. Sì. Non so, il Montolivo con Pirlo, il Pepe, che secondo me mettere Pepe titolare, non lo so. Mi gioca quasi nell'Udinese titolare. Forse il Pepe, non il Pepe di altri momenti, ma il Pepe di questo momento, insomma, in effetti qualche perplessità può restarla. Montolivo accanto a Pirlo e a De Rossi, cioè tutti tutti i giocatori, diciamo, di costruzione e non tanto di interdizione. Sì, sì, ma sono scelte molto discutibili, che in effetti sono state sottolineate. D'altra parte, se non si approfitta di un amichevole, soprattutto ad alto livello, per avere risposte sulle qualità di un giocatore, cioè per capire se quello è un giocatore su cui puoi contare e fino a che livello di in campo internazionale, sono queste le partite che ti danno risposte, no? Certamente alcune risposte di ieri sera sono negative, non c'è dubbio che Lippi ne dovrà tenere conto. Da Salerno, Massimo, buongiorno. Sì, dottor Granzini, buongiorno. Allora, io condivido un po' le sue osservazioni circa la prestazione di ieri della nostra nazionale, nel senso che non è stata una partita da buttare, e assolvo completamente Lippi, nel senso che, pur condividendo che alcune scelte possono sembrare eccessive, quelle di schierare Montolivo, quelle di schierare Pelle, però io credo che Lippi, da fine psicologo, stia cercando di far elevare la qualità di questi calciatori in funzione poi di quello che è l'obiettivo principale del nostro mondiale nel 2010. Lui si rende conto benissimo che il mondiale da disputare con gli stessi giocatori è improbabile, se non impossibile, vincerlo, e quindi spera che da qui all'anno prossimo almeno due o tre di questi calciatori possano formarsi al punto poi da diventare giocatori importanti per il mondiale 2010. Ha un senso quello che dice lei, ed è certamente questo l'obiettivo di Lippi, e quindi sono questi i passi per raggiungere quell'obiettivo. Poi si può discutere, infatti semmai si discute se queste sono davvero le migliori pedine in prospettiva, ma è giusto provarle, ed è giusto che visto che l'incarico c'era lui, è giusto che sia lui a decidere quali provare. Sicché io sono ampiamente d'accordo con lei. Massimo, sentiamo un'altra voce e restiamo in ambito azzurro, ma usciamo, ringiovaniamo un attimo, andiamo nell'Under 21 e sentiamo quello sfogo di Casiraghi che vi avevo preannunciato ieri dall'agenzia. Adesso lo sentiamo direttamente dalla sua voce. Io ho smesso di giocare a 29 anni, quindi vedere un ragazzo del suo talento che a 18 anni ha questi comportamenti, ma non solo, voglio dire, con la nazionale, ma soprattutto magari anche col club, un po' sicuramente mi fa incazzare, quindi spero che cambi per il suo bene. È una partita importante per tanti risvolti, il fatto che siano poche, c'è questa, quella del 31 marzo, poi andremo direttamente a giugno, e quindi va sfruttata anche perché è una squadra che troveremo nel nostro girone, anche per valutare i giocatori. Secondo la formazione non annunciata da Casiraghi, ma insomma quella che si è tentato di indovinare, che comunque più o meno tutti hanno pubblicato, Balotelli non partirà stasera tra gli 11 titolari, ma partirà dalla panchina, proprio perché avete sentito la frase, anche insomma, non, formalmente non ineccepibile, visto che si era una conferenza stampa ufficiale di Casiraghi, anche perché Casiraghi ha avuto, si diceva già ieri, l'ira a scoppio ritardato, no? Che in genere è delle peggiori. In un primo tempo l'aveva presa bene, poi ci ha riflettuto, evidentemente. Magari qualcuno gli ha fatto notare che non era che il perdonismo in questi casi può darsi che paghi, può darsi che no, e ha avuto questo ritorno di fiamma nei confronti di Balotelli e dei suoi comportamenti. Da Prato, Giovanni, buongiorno. Salve, buongiorno. Senta, io di solito l'ascolto di notte in replica perché faccio il lattaio. Allora, appena posso intervenire, intervengo. No, volevo solo dire che secondo me questo tipo di amichevoli, come è la mentalità dei giocatori italiani, sono inutili. Perché arrivati a questo livello, adesso siamo allo sprint del campionato, riprendono tutte le coppe e i giocatori tirano indietro le gambe. Si vedeva ieri tutti i giocatori titolati, anche quelli a livello mondiale, che non erano proprio in forma o non volevano, insomma, in qualche modo rischiare più di tanto. Ecco. E secondo me o si provano giocatori totalmente nuovi, oppure si evitano. Perché i giocatori non si impegnano al giusto, ecco. Ma senta Giovanni, ma quelli del Brasile però sono impegnati, secondo me. O no? Sono un po' inutili, ecco. Sì, ma intendo dire, supponiamo che lei abbia ragione, e secondo me no, perché Zambrotta, faccio un caso limite, ma Zambrotta c'è, credo che abbia corso più ieri sera di quello che corre in una partita normale, anche con una grande posta in palio. Ma i brasiliani però si sono impegnati. No, ma non parlo che i brasiliani, la mentalità dell'Italia. L'Italia nelle amichevoli non ha mai fatto delle grandi partite, anche solo a livello agonistico. Sì, vediamo Zambrotta. Sì, no, questo lo si era già detto prima, d'accordo, però non mi sembra poi che questa fosse... Soprattutto è vero che in questo momento c'è il campionato, è vero che gli spazi per le nazionali sono sempre meno, però in fondo ogni tanto bisogna farle giocare, no? Ste nazionali. Stasera si gioca Francia-Argentina, si gioca Spagna-Inghilterra, sono amichevoli di prestigio che equivalgono quasi più o meno a un Italia-Brasile. Poi si tratta di prendere tutto, di pesarlo nel modo più corretto, quindi con una certa relatività. Ma da lì a non giocare mai mi sembra persino troppo, insomma. Vincenzo, provincia di Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Garanzini. Ascolti, proprio mi voglio collegare a quello che stava dicendo poc'anzi. Le premetto, io sono un interista credente ma non praticante, da lontano, penso 86-87, all'era di Trapattoni, quando c'erano i tre tedeschi, in quanto... fui demoralizzato da allora dal 2, ero contentissimo, orgoglioso della galoppata di Berti e poi il funerale a San Siro. E io da allora sono diventato abbastanza sportivo, nonostante mi dicono che negli ultimi 2-3 anni l'Inter abbia vinto qualcosa, se non sbaglio. Però mi volevo collegare appunto a questo discorso della nazionale. Ma ci siamo dimenticati quello che è successo prima del caso Englaro? Cioè il problema che era nato anche a livello politico sul discorso del Brasile per l'estradizione per quanto riguarda Battisti doveva dare una motivazione forse diversa per l'approccio a questa amichevole, tra virgolette. Mentre invece, come giustamente ho sentito anche la risposta che ha dato a qualche ascoltatore, sono due nazionali della stessa categoria. È che una l'ha interpretata in un modo giusto, l'altra... naturalmente si gioca in due, non come doveva essere affrontata, solamente per quello che era l'approccio di qualche settimana fa. Io non so veramente a che approccio si riferisca e non so che significato potesse avere in più o in meno se non fosse successo quello che è accaduto nel frattempo. Ci ho proprio veramente capito poco, ma è un problema mio. Le 14:57:30, già in leggero ritardo. Vi lascio al giornale radio dopo aver salutato e ringraziato Filippo Aureggi in regia e Flavio Suardi in redazione. Buon pomeriggio.